Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Da questa settimana in onda anche su Radio Lupo Solitario, la web radio rock che potete ascoltare in tutto il mondo collegandovi a www.radiolupo.it. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Anche la Pasqua 2017 verrà festeggiata da molte persone con i tradizionali banchetti a base di carne, di agnello, capretto, abbacchio e chi più ne ha più ne metta. Uno spettacolo non adatto a un pubblico sensibile. Ma in questa atmosfera da natura morta con contorno ci sono anche degli squarci che fanno pensare a un lento ma inesorabile cambiamento in atto. Per esempio, noi che siamo toscani non avremmo mai pensato che uno come Dario Cecchini, il mitico macellaio di Panzano in Chianti, avrebbe potuto un giorno esternare quello che sta esternando oggi. Cecchini sostiene che, pur restando fedele al suo antico motto «Viva la ciccia e chi la stropiccia», da anni, per scelta etica, a Pasqua non vende né cuoce abbacchi, ma, parole sue, solo animali adulti che hanno avuto una vita lunga e felice. Sulla felicità di chi deve morire per finire nel piatto abbiamo ampie riserve. C'è anche chi, per salvare gli agnelli dai mattatoi pasquali, ha deciso di pagare gli allevatori. Un'operazione a dir poco titanica, un po' come svuotare il mare con un cucchiaino. A proporre questo metodo è una certa Michela Miscia Cossetto, animalista della Bassa Friulana, che l'anno scorso ha fondato l'associazione Il Sentiero di Ares, un luogo per cani terminali, e che oggi raccoglie fondi per salvare agnelli. Gli agnellini hanno un prezzo di mercato di circa 5 euro al chilogrammo, per cui il loro costo è legato al peso. Trovarsi davanti a questi agnelli destinati al macello è un'esperienza orrenda, dice Michela. Se qualcuno volesse prendersi una pecora, prima che io me le porti tutte a casa, mi contatti. Ci sono maschi, femmine e agnelli di ogni età. A oggi sono una decina quelli salvati e dati in adozione, eccetto Lana e Lupo. Due esemplari che vivono nella sua fattoria. Gli altri sono stati accolti un po' in tutta la provincia. Masha racconta che quando è andata a prendere il primo agnellino non sapeva bene quale scegliere tra i tanti e allora ha chiesto alla figlia di scegliere. E così sono tornati a casa con un agnello che, più che un agnello, sembrava un ippopotamo, che è stato battezzato Lana. Lana ha scelto come mamma adottiva uno dei cani di famiglia, Noah, e a quel punto hanno dovuto prendere un altro agnello perché il cane Noah non poteva continuare a vita a fare da mamma pecora. Essendo un animale da gregge, adesso Lana ha la sua brava compagna, la sua brava altra pecora. Dove deve vivere? Ha bisogno di una stalla o può stare anche fuori con un riparo? Basta un recinto? Ha bisogno di un cane per la compagnia? Sono le domande più frequenti della gente che non ha esperienza nella cura di questi animali, ma che disperatamente vuole salvarli da una fine certa. Michela mette in guardia anche dai facili entusiasmi di tante persone generose, perché per adottare un agnello si deve pensare prima di tutto che questo crescerà e diventerà una pecora. Se la strategia di Michela è discutibile, in quanto i soldi del riscatto degli agnelli vanno nelle tasche degli avversari storici degli animalisti, ovvero gli allevatori, Ancora più controversa è l'iniziativa di un'altra Michela e dell'immarcescibile Silvio Berlusconi, che assieme a Michela Vittoria Brambilla chiede ai cittadini elettori di salvare gli agnelli dalla brace pasquale. E mentre i social si polarizzano tra chi trova del buono nel messaggio berlusconiano e chi invece si scandalizza del fatto che qualcuno trovi del buono, Donatella Prampolini, presidente della FIDA Confcommercio, la Federazione Nazionale dei Dettaglianti Alimentari, ammette che a 6 giorni dalla Pasqua l'effetto Berlusconi si fa sentire. In che modo? Il consumo di carne ha avuto un crollo. Si parla del 30% in meno di prenotazioni di agnelli, abbacchi e capretti nei negozi. In London town, where I did dwell, lived a butcher's boy, I loved so well. He stole from me my heart away, but with me now he will not stay. There is a house in London town where my true love, he sets him down, and he takes a strange, strange girl on his knee, and he tells to her. Uno degli esempi tipici per dimostrare che gli umani non sono carnivori è il seguente. Metti un bambino piccolo davanti a un coniglietto e a una mela. Il bambino giocherà con il coniglio e mangerà la mela. Prova a farlo con un cucciolo di leone e probabilmente la storia cambierà. Lo stesso esempio funziona benissimo sostituendo il coniglio con un agnellino. E di agnellini è pieno l'immaginario dei bambini, anche quello di Agatha, la bambina speciale che conduce la rubrica Speriamo che sia vegan. Una rubrica che parla di libri dedicata ai bambini e alle bambine che amano gli altri animali. Speriamo che sia vegan. Letture per bambini che amano gli animali. Fiaba classica dei fratelli Grimm, il lupo e i 7 capretti ha in sé allo stesso tempo uno spirito di rivalsa, ma anche quel tono macabro e un po' crudele che nelle favole spesso la fa da padrone. Se, infatti, il capretto da vittima iniziale riesce poi a salvarsi ad avere la meglio sul lupo, il suo trasformarsi a sua volta in carnefice lascia, perlomeno, di malumore e con l'amaro in bocca. Per non parlare della solita immagine negativa che si porta dietro come uno stereotipo il lupo da secoli, da Cappuccetto Rosso ai 3 porcellini, passando dall'immaginario alla realtà che lo ha visto anche recentemente nel mirino. E che per i bambini ha automaticamente il lupo cattivo. Ma nella versione rivista e corretta dei Lupo vegetariano e i 7 capretti di Francesca Pierrone, al lupo viene data una chance per scrollarsi di dosso quello stereotipo e riscattarsi. Un messaggio sottilmente lanciato ai piccoli lettori, ma soprattutto ai loro genitori, come dire, se ce l'ha fatta lui, potete farcela anche voi, a Pasqua e sempre, perché se il lupo è cattivo perché mangia il capretto, beh, è in buona compagnia, e non solo a Pasqua. Ma partiamo dall'inizio. C'era una volta una capra che aveva 7 capretti. Un giorno li chiamò tutti e 7 e disse: «Piccoli miei, devo andare nell'orto a fare provviste. Porterò frutta fresca e tanta buona verdura. Ma voi state attenti al lupo. Se viene vi mangia tutti in un solo boccone. Quel furfante spesso si traveste, ma lo riconoscerete subito dalla voce rauca e dalle zampe nere». «Non preoccuparti, mamma, staremo attenti!» «Miei capretti, State attenti, il lupaccio ha grossi denti. Se vi acchiappa quel furgone, vi divora in un boccone. Se vi acchiappa quel furgone, vi divora in un boccone. Ma appena la mamma uscì di casa, qualcuno dalla voce rauca bussò alla porta. «Aprite, aprite, sono la vostra mamma. Ho portato qualcosa di buono per ciascuno di voi.» «Non apriamo. La nostra mamma ha la voce dolce e gentile, la tua voce invece è rauca. Tu sei sicuramente il lupo.» «E la voce rauca e forte fa tremare tutte le porte. Se a bussar da voi verrà, non aprite per carità. Se a bussar da voi verrà, non aprite per carità.» Così il lupo mangiò un po' di miele per cercare di addolcire la voce. Poi tornò dai capretti. «Aprite, piccini miei, sono la mamma con tante cose belle.» «Non apriamo, la nostra mamma non ha le zampe nere come le tue. Tu sei sicuramente il lupo.» Allora il lupo provò a imbiancarsi la zampa con la farina per schiarirla e ritornò dai capretti. «Le sue zampe sono scure, le sue unghie nere e dure. Se a bussar da voi verrà, non aprite per carità. Se a bussar da voi verrà, non aprite per carità.» «Aprite, piccoli miei, sono la vostra mammina.» «Prima facci vedere la zampa.» Ahimè, l'inganno era riuscito alla perfezione. I piccoli aprirono la porta e... il lupo li divorò tutti, tranne uno, che al ritorno della mamma raccontò disperato quanto accaduto. «Mammina, è venuto il lupo e ha divorato tutti i miei fratelli.» «Presto, corri a casa a prendere forbici, ago e filo. Forse i tuoi fratellini sono ancora vivi.» Mentre il lupo sonnecchiava dopo l'autopasto, mamma capra estrasse dalla sua pancia tutti i piccoli, traendoli in salvo, ma improvvisamente le venne in mente un'altra idea geniale per riempire quel pancione affamato. «Farò passare a quel briccone la voglia di mangiare capretti.» E così, da quel giorno qualcosa è cambiato, per il lupo e per i capretti. «Cosa hai messo nella mia pancia che mi fa stare così bene?» «Frutta e verdura.» «Da domani, cara mamma capra, andrò anch'io nell'orto a raccogliere ortaggi, così potremo preparare deliziosi pranzetti e ogni giorno mangiare tutti insieme, come vecchi amici.» Il lupo vegetariano e i sette capretti di Francesca Pirrone, a partire dai 3 anni di età. Terra Nuova Edizioni, 32 pagine, costo 12 euro. Stop you coming through. Ancora quadrupedi, ma adesso parliamo di cavalli, anzi parliamo di equitazione senza equitazione. Qualcuno si è chiesto se il cavallo abbia voglia di indossare il morso, le briglie, la sella e di trasportare un bipede sul groppone? Non è una cosa propriamente naturale l'andare a cavallo, nonostante secoli di storia ci abbiano inculcato che questo sia solo uno sport. Oltre all'ottima associazione Italian Horse Protection, oggi abbiamo trovato un'altra realtà che propone una riflessione e un ripensamento sull'equitazione. Si chiama horsemankind.it ed è una realtà del ferrarese che propone percorsi per superare la doma e l'addestramento e sostituirli con una relazione paritetica, per costruire un dialogo tra due compagni, sostituendo l'autorità con l'autorevolezza, il comando con la richiesta, l'imposizione con la collaborazione, tenendo sempre presente il fatto che siamo noi umani che cerchiamo i cavalli e desideriamo relazionarci con loro, e mai il contrario. Ci ripromettiamo di andarli a trovare e intanto chi avesse curiosità o fosse interessato alla proposta può cercare su internet horsemankind.it. Questione che riguarda indirettamente gli allevamenti e comunque sicuramente il mercato della carne, il business dello sfruttamento animale, è la questione del cosiddetto meat sounding, e cioè le denominazioni dei prodotti sostitutivi delle carni, e cioè le bistecche vegan, i würstel vegan, i formaggi vegan e così via. Il caso, su sollecitazione dei produttori tradizionali, era arrivato fino alla Commissione europea, perché si cercava di inibire la possibilità per i prodotti su base vegetale di usare denominazioni riferite ai tradizionali prodotti a base di carne. La Commissione europea, interpellata dagli europarlamentari italiani Paolo De Castro e Giovanni Lavia, ha dunque fatto chiarezza sulle denominazioni in campo agroalimentare e, come riferisce Paola Cane, direttrice dell'Osservatorio Vegan OK, la Commissione europea ha risposto per iscritto dicendo che non prevede di introdurre nuove denominazioni tutelate per i prodotti a base di carne, perché le norme esistenti tutelano già il consumatore e garantiscono che non vengano ingannate sulle caratteristiche di ciò che mangiano. Con questa presa di posizione, dunque, le aziende che producono prodotti su base esclusivamente vegetale potranno continuare a usare espressioni come bistecche di soia e würstel vegetali senza temere ricorsi e condanne. L'importante, evidentemente, è che sulle etichette sia ben chiaro che si tratta di prodotti vegetali, qualunque sia il nome che si sceglie di attribuirgli, in modo che non ci sia inganno per il consumatore. La questione animale è fatta di tante sfaccettature e ha mille declinazioni. Non è solo una questione alimentare, come diciamo sempre. Uno degli aspetti meno noti ma più interessanti è la produzione filosofica e culturale che la prospettiva animalista e antispecista ha attivato. Da sempre la nostra trasmissione ha seguito i migliori pensatori e oggi ve ne proponiamo uno che da sempre seguiamo soprattutto per il suo innovativo lavoro sulla relazione uomo-animale. Eleonora Adorni ha intervistato per noi Roberto Marchesini, fondatore della scuola SIWA di interazione uomo-animale, che oggi ci parlerà di etologia filosofica, che è anche il titolo di una delle sue ultime fatiche editoriali. Roberto, ci spieghi brevemente cosa intendi per etologia filosofica e il tuo obiettivo in questo libro? Innanzitutto l'obiettivo è quello di mettere in discussione il modello cartesiano dell'animale come una macchina, cioè l'idea che l'animale sia mosso da degli automatismi, che non abbia una soggettività, che viva completamente nell'immediatezza e quindi che non abbia passato, non abbia futuro, non sia presente a se stesso. L'idea è proprio di cambiare questo modello partendo da una concezione di soggettività dell'animale e dell'idea che in realtà tutte le dotazioni siano degli strumenti che l'animale utilizza in modo libero e flessibile e non siano dei fili che muovono l'animale come se fosse un burattino. Il testo ruota attorno al concetto di soggettività animale. Cosa significa riconoscere una soggettività animale e qual è il nesso tra soggettività e desiderio? Innanzitutto va detto che nella visione tradizionale, appunto, il meccanicismo cartesiano si basa sul fatto che tutte le dotazioni, e quindi gli istinti, quelle innate, e i condizionamenti, quelli appresi, siano in sé responsabili del comportamento. Quindi se l'animale fosse nient'altro che una sommatoria di automatismi, è chiaro che non ci sarebbe nessun posto per la soggettività, perché in realtà risulterebbe nient'altro che l'innesco di automatismi, esattamente come un'automobile quando accende il motorino d'avviamento parte, ma non è che prende consapevolezza, ma anche in maniera inconscia esiste, semplicemente c'è un innesco di un automatismo. L'idea invece, che si è sviluppata poi anche precedentemente attraverso l'etologia cognitiva, è quella di vedere nelle dotazioni sia innate che apprese degli strumenti, e quindi come ogni strumento, come la carta di una città, non è in sé l'itinerario, ma è il soggetto che la utilizza per fare l'itinerario. Sulla base di che cosa? Qual è la caratteristica fondamentale degli animali? Che sono delle entità desideranti, cioè che sono delle entità inquiete, delle entità sempre alla ricerca, sono peripatetiche non perché si muovono, ma perché esse stesse sono movimento, in quanto costantemente cercano nell'ambiente qualche cosa e desiderano esprimere. Quindi il desiderio sta proprio alla base della soggettività, che viene ancora prima della coscienza. In altre parole, l'animale è cosciente in quanto desidera, non desidera in quanto è cosciente, e il pensiero è assolutamente il frutto di questo desiderio. Noi pensiamo perché desideriamo, non desideriamo perché pensiamo. Questo peraltro significa anche abbattere qualunque barriera tra l'essere umano e le altre specie, insomma ogni specie ha le sue caratteristiche, è quindi dotata di strumenti di intersezione col mondo differenti, quindi è chiaro che essere cane è diverso da essere gatto, essere uomo è diverso da essere scimpanzé, ma tutti gli animali hanno alcune caratteristiche in comune, potremmo dire dei metapredicati, cioè qualcosa che sta al di sopra dei caratteri, che è riferibile all'essere animale. L'animale desidera, l'animale poi utilizza le sue dotazioni per compiere i propri desideri, ma il nesso, il punto fondamentale dell'animalità è il desiderio. Etica e ontologia. Cosa cambierebbe nel modo in cui ci rapportiamo con gli animali non umani se accettassimo la rivoluzione messa in campo dall'etologia filosofica? Ma sicuramente dovremmo guardare gli animali in maniera totalmente differente. Oggi li consideriamo dei beni, dei prodotti, li utilizziamo appunto come beni di consumo, come entità performative. Cambiare questa visione oggettivamente cambierebbe in maniera rivoluzionaria il nostro modo di approcciarci al mondo vivente. E forse queste sono le più grandi, come dire, ipoteche che normalmente abbiamo, cioè le persone ormai da un punto di vista scientifico sappiamo benissimo che gli animali non sono gli automi di Cartesio, solo che fare questo passaggio vorrebbe dire realmente rivoluzionare tutto il nostro impianto economico, impianto antropologico, e questo secondo me le resistenze nascono da qui. Etologia filosofica, alla ricerca della soggettività animale, di Roberto Marchesini, editore Mimesis, anno 2016, 12 euro. Camilluccia cara, dopo aver nutrito la mente, nutriamo anche il fisico. A questo provvede magistralmente il nostro super tosco vegan chef Gabriele Palloni nella rubrica che conduce, titolata Il pasto gentile. Stavolta abbiamo chiesto a Gabriele di raccontarci il pranzo pasquale ideale di uno chef vegano. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Un menù ideale per una Pasqua senza crudeltà? L'idea potrebbe essere quella di un pranzo molto alternativo, che abbia inizio con una bella insalata di verdure di stagione, crude, accompagnata da frutta secca e condita con succo di agrumi. E a seguire la ricetta di oggi, un risotto ai mirtilli e ai fiori di glicine. Il tutto accompagnato da un buon tè verde. E basta? Qualcuno potrebbe obiettare. Sì, perché questa proposta nasce da una riflessione su questa ricorrenza. La Pasqua rappresenta un passaggio, un momento di cambiamento evolutivo, liberarsi da qualcosa che ci imprigiona per poter rinascere in uno stato più avanzato. Per tradizione, cultura o semplicemente abitudine, ho sempre celebrato questo giorno tuffandomi a bocca aperta su una tavola stracarica di cibo. Ma riflettendo bene, sarebbe più coerente accompagnare questa giornata con cibi leggeri, che stimolino la meditazione o le siano d'aiuto. E così ancora una volta rinnovo l'invito a celebrare la vita attraverso il rispetto di questa. Comunque tranquilli, è solo una riflessione e un suggerimento. Vi c'è sempre la libertà di scofanarsi in mezzo supermercato. Ingredienti per la ricetta di oggi, per 4 persone, sono 320 g di riso carnaroli, 150 g di mirtilli, 4 scalogni, olio extravergine di oliva, un bicchiere di vino bianco, una tazza di fiori di glicine, mezzo bicchiere di latte vegetale, sale e pepe. Sbucciate e affettate lo scalogno e fatelo scottare in un tegame con poco brodo vegetale o acqua. E quando il liquido si sarà ritirato, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Fate rosolare per un paio di minuti e aggiungete il riso. Fatelo tostare per pochi minuti e bagnate con il vino bianco. Lasciate evaporare e aggiungete i mirtilli e i fiori di glicine, lasciandone alcuni da parte per usare come decorazione. Portate a cottura con del brodo vegetale, lasciando il risotto all'onda, ben cremoso. Mantecate il riso con un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e un goccio di latte vegetale e impiattate. Decorate con fiori di glicine e mirtilli. Siamo in chiusura. Ricordiamo le persone e gli ospiti che hanno contribuito a questa trasmissione, che sono Eleonora Dorni, Roberto Marchesini, Agata, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Lorenzo Guadagnucci, Gianni Ferrarotti, il leone Giuseppe Coco e la gazzellona Camilla Lattanzi. L'appuntamento con Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.